Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, io oggi ho aperto la porta di casa con una certa circospezione, temendo le cavallette dietro la porta, ma non c'era niente. Beh, c'è una mostra molto più temibile se seguo l'informazione italiana. Altro che le cavallette, cavalli sono simpatici, Ioni. Animaletti che saltano. È finito l'illuminismo, ci sono orde di razzisti, barbari ubriachi per le strade dell'America che ne hanno preso il potere come in una fiction distopica. Cioè, gli italiani, a differenza del New York Times che ha chiesto scusa, e di Paul Krugman che ha detto, non proprio, insomma, uno che possa essere sospettato di essere terreno contrario, che ha detto dobbiamo dirlo chiaro, non ci abbiamo capito niente e la colpa è nostra, parlando a nome degli intellettuali libera, keynesiani, statalisti di sinistra, per i quali anche Obamacare era troppo poco, perché bisogna fare la rivoluzione socialista permanente, stampare denaro gratis dicendo alla gente che l'unica via per uscire e così via. No, sui giornali italiani continua a essere questa la linea. Cioè arrivano, sono arrivati gli unni, arrivano i barbari, Non è che tu sfogli la Repubblica e trovi, vi dobbiamo chiedere scusa, no, trovi Rampini, Zucconi, Alexander Siri dice è finito l'illuminismo, ma quando è che la vogliamo piantare di fare comizi permanenti? E capire, spiegare ai lettori, c'è un punto di vista dei giornali, certo, anch'io ce n'ho uno. Però questo non ci dovrebbe impedire di conciliare un punto di vista, ma con il fatto che poi bisogna interpretare i fatti. Se 60 milioni di americani votano Trump, è possibile mai che possiamo pensare è la notte dei cristalli di Hitler, come sembra leggendo i giornali? Ecco, io mi limito a questo. Il che non significa dire che non è un uomo pieno di difetti, il suo sessismo, le sue berlusconate, eccetera, eccetera. Sì, ma dire che i suoi eccessivi modi di fare. Ma presentare questo fenomeno come la fine dell'illuminismo, cioè la civiltà moderna occidentale, forse. Per esempio, io segnalo, l'ho letta la segna stampa, Claudio Gatti sul Sole 24 Ore, secondo me ha centrato il punto, cioè la working class bianca, quella depotenziata dalla delocalizzazione, dalla chiusa delle fabbriche, dall'aver visto anche magari aiutare i salotti finanziari, l'establishment, e che si è sentita sempre più impoverita, ha votato in gran parte per Trump. E lì, quindi la working class, diciamo di cultura medio-bassa, cultura di istruzione, lì hanno votato anche le donne per Trump. Le donne hanno votato per Trump. Ma come? Cioè, le donne bianche sessista, hanno votato a maggioranza Trump per Trump, misogino. Scrive il Washington Post, quindi non ha funzionato la presidente donna. Perché? E diciamolo chiaro, non è la donna coi titoli, è la moglie di un ex presidente che si candida. Quindi molte femministe dicono: scusate, questa è un pezzo di potere. È una donna con le fondazioni finanziate dagli arabi in cui usano i milioni per fare il matrimonio della figlia. Ma mi dite che questi sono i valori progressisti dell'integrazione? Ma però bisognerebbe avere un po' il fegato di ammetterle queste cose, altrimenti non si capisce. Oppure perché quelli che dicono arriva la guerra, lo sanno che Hillary Clinton sull'Iran, sull'Ucraina, sulla Russia, sulla Siria, una politica certo molto più aggressiva certo di quella che avrebbe avuto Donald Trump, che forse non ne ha neanche una ben definita. Ma il punto, Alessandro, è che se si ritira da tutti i teatri operativi e abdica le sue responsabilità, Obama è una cosa progressista, perché la svolta dopo i neocon bushani, che ve lo sottolineo, hanno votato però per Hillary questa volta esplicitamente. Certo. Uno, due, se arriva Trump che dice gli europei si paghino la difesa per loro, perché in realtà è in coerenza con quello che ha fatto Obama, diventa allora l'Armageddon, ci lascia nelle mani del nemico. Ragazzi, io non so cos'è, io sono vecchio, quindi sono decenni che vedo queste cose. Come avete capito, però parleremo di questo. Però, e chiamateci all'800-24-0024 per capire se voi temete che l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca possa portare qualche sconquasso mondiale, magari sull'economia. Oscar, qualcosa ci dirai? C'è il ritorno del protezionismo, voglio dire, esempio. Non è che Obama ne ha portati pochi sulla scena internazionale. Gli sconquassi, siccome viviamo in un mondo instabile per tanti motivi, lo sappiamo, tra il terrorismo, l'islamismo, il post 2008, non lo so, Però il problema è che qui si continua a concepire invece il rischio come se fosse unilaterale, perché o vince quello che ci piace, oppure c'è il mondo che si spacca, è arrivato l'asteroide. Guarda che Mario Calabresi però in prima di Repubblica, visto che tu giustamente hai sottolineato Repubblica, lo dice proprio in finale, dice dovremmo fine, un giorno chiederci, un giorno adesso, cioè, non un giorno, Mario, sul tuo giornale di cui sei direttore, un giorno forse l'ho messo io. No, mea culpa, non so, adesso lo devo trovare, non ha detto un giorno, dovremmo chiederci del perché appunto i giornali, di non confondere gli auspici con l'analisi. Poi ecco, un direttore non dice dovremmo chiederci, fa vedere sul giornale che se lo sono già chiesti. E oggi su quel... ecco, ma ripeto, guarda, ti dico la frase, perché sennò ci resta da riflettere. Ecco, ci resta, sul vizio dei giornali di confondere gli auspici con la realtà. E riflettiamo davvero, però c'è chi si mette a fare i fatti, Maurizio Molinari, la sua stampa, a me piace per questo Maurizio Molinari. C'è chi lo ha ammesso, per esempio Paolo Mieri, ieri sera ospite del TG3 della notte. Lasciando stupefatti due ospiti che c'erano, e invece con gli applausi di un altro, ha fatto una lunghissima autocritica facendo un mucchio di esempi. Ecco, questo è il motivo, secondo me, bisogna distinguere. E lo so che è antipatico fare i nomi, cari ascoltatori, però la mia opinione è questa, insomma, ecco. Vabbè, in tutto questo i santi ce li vuoi dire velocemente? Ci sono i santi? I santi ci sono, ma è San Leone Magno soprattutto. C'è un grandissimo che pensa, viene a fagiolo, perché San Leone Magno, se ti ricordi, è quello che non me lo ricordo, non voglio fare meazza adesso, no, però religiosamente non me lo ricordo, te lo ricordi, perché è quello che ferma gli unni, è quello che li va a incontrare, quindi è il santo del giorno, mandiamolo contro Trump. Capita a caso nel calendario liturgico. San Leone Magno, salvaci tu, direbbe Rampini, Zucconi e tutti costoro. Che cosa si festeggia oggi come anniversario? Dico Mao, che scatena la rivoluzione culturale. Vedi, China. Poi Maradona che lascia il calcio nel 2001 e ci lascia Orbi. Nasce Martin Lutero nel 1483, però per me oggi tra i tanti che fanno il compleanno posso dire Ennio Morricone, per me, che è musica che secondo me anche gli alieni tra migliaia e migliaia di anni, quando saremo in contatto con loro e noi saremo spariti di fronte a loro, come dice Stephen Hawking in questa intervista che io invito tutti a leggere perché fa un che po' paura. Che è successo un giorno Stephen Hawking a quello del Big Bang e buchi neri, esatto, ha spiegato tante belle cose e dice piantatela di mandare segnali nel mondo, perché quando ci risponderanno capirete che era meglio non mandarli. Arriveranno gli alieni, che non sono Donald Trump e i suoi, secondo molti giornalisti italiani sì, sono già arrivati e sono Trump. Allora, però ne parliamo con i nostri ascoltatori, parliamo con i nostri ospiti anche, vogliamo intanto avere uno che abbiamo chiamato, perché tanto siamo sicuri che il suo anti-americanismo è talmente dichiarato, è limpido e lampante, che avesse vinto la Clinton o con Trump l'anti-americanismo credo non cambi. Non so, Massimo Fini, ciao Massimo. Ciao Alessandro, non c'è male. Eccoci qui, tra l'altro voglio ricordare anche la sua la modernità di un antimoderno, poi magari ne parliamo in chiusura, l'ultima opera che racchiude un po' il pensiero di Massimo Fini tutti questi anni. Insieme a Massimo Fini salutiamo anche Andrew Spanhaus, giornalista, analista americano, autore del libro Perché vince Trump, e quindi alla 400esima intervista in questi giorni. Spanhaus, la ringraziamo. Esatto, buongiorno. Però, ieri l'intervista continua. È il momento di raccontare perché ha vinto Trump. È d'accordo quando Claudio Gatti oggi sul Sole racconta che è proprio la working class bianca, quella impoverita, depauperata, depotenziata dalla delocalizzazione, dalla perdita di capacità di salario, che ha portato al trionfo Donald Trump? In parte, in generale sì, questo è le motivazioni sono queste, però non solo quella impoverita e depauperata, anche quelli che non hanno perso completamente il lavoro o hanno due posti di lavoro magari, quindi devono lavorare di più, hanno un lavoro più precario. Questo sicuramente è il fattore principale che ha guidato il voto. Infatti troviamo addirittura tra i sindacati, per esempio, iscritti ai sindacati hanno votato Trump in maggioranza rispetto a Clinton. Quindi qui abbiamo un processo di decenni in cui una grossa fetta della classe media viene lasciata fuori dai guadagni economici che sono andati più in alto. Perché tra l'altro diciamolo, Oscar, perché Andrew Spanowski, anche tu hai ospitato due giorni fa, cinque mesi fa ha scritto perché vince Trump. No, cioè, e soprattutto, quindi voglio dire, rispetto ai giornalisti, nella lunga traversata dell'informazione mainstream, in cui chi aveva scritto un titolo da quel libro veniva trattato come un mentecatto che non aveva capito niente, invece di ringraziare chi ce lo spiega perché è di là, perché questo poi è quello che è capitato. Certo. E quindi leggere tutti i commenti di questi giorni, arrivano gli unni, barbari, le cavallette. Andrew, che pensa? Ma questa è la continuazione della superficialità che si è utilizzata per troppi mesi, e mi dispiace vederlo. Adesso sarebbe il caso di rendersi conto della situazione, cioè pensare che questo sia la rivincita dei uomini bianchi, insomma, è un molto superficiale. C'è una parte, è chiaro, una parte di persone che sono razziste, hanno l'atteggiamento, sottoscrivono certi atteggiamenti ovviamente problematici di Donald Trump, ma le donne hanno votato in maggioranza, esatto, per Donald Trump, e quindi qui c'è qualcosa di molto più forte in atto. C'è un messaggio all'establishment, all'elite economico e politico, se si dice basta. Hanno scritto, per dirlo con Oscar Giannino, qua hanno scritto, qua hanno scritto tutti per mesi, non prenderà mai voti tradizionali del Partito Repubblicano, gli sono tutti contro, ha preso l'88%, ed è il Washington Post a dirlo, ha preso l'88% del potenziale dei voti repubblicani, poi con le sue cose è un ateo miscredente, non prenderà i voti della religione, ha preso il 78%, dice Washington Post, dei voti potenziali degli evangelici e così via. Poi noi, se vogliamo, continuiamo a parlare di un mondo che non c'è. E allora a quel punto ha ragionissimo, ed è coerente per questo, e va ringraziato il nostro secondo ospite che ci bastona, che bastona da anni da una parte e dall'altra questa maniera di concepire l'establishment, e non gli piace. Ma se continuiamo a fare questa, non è più informazione, è un circo barrum. La gente ti avverte primo come irrilevante, sbagli tutte le previsioni, certo, eccetera, certo, secondo come parte di quell'establishment che odia. Sì, che forse è la cosa peggiore, esatto, questa è la seconda, cioè, perché un conto è non sapere o non riuscire a cogliere, ma essere considerati, come dire, conniventi di certi establishment. Anzi, come ci scrivono poi molti scrittori, servi, perché poi ti servi, danno dei servi, sì, come ovvio. Servi, no? Zerbini, lecca culo. Io sono stato ovviamente più morbido. Però Massimo Fini, allora, non lo so, non so come metterla, se Massimo ti piace più Trump o la Clinton. Ma non ti piace nessuno. Subito, perché io ho scritto, ho pubblicato ieri, cioè ho scritto l'altro ieri, prima delle elezioni, chi vinceva, le ragioni per cui Trump era preferibile alla Hillary Clinton. Sì. E quindi sono mondo da critiche, nel senso. E perché è preferibile? Perché è preferibile? Per alcuni motivi. Intanto diciamo una cosa, che i più grandi sostenitori di Trump sono stati i sostenitori della Clinton. Cioè, quando uno vede che tutta la finanza internazionale, che tutta la stampa internazionale, che tutte le star di Hollywood stanno da quella parte, credo che il cittadino americano si sia chiesto, ma forse mi rappresenta di più l'altro. No? È chiaro, no, ma è chiaro, infatti è una aurea saggezza. L'altra cosa, poi c'è una componente secondo me importante nella vittoria di Trump. Sempre che lui mantenga ciò che poi ha detto in quel discorso molto più istituzionale il giorno che ha vinto, è che mi pare che recuperi la tradizione repubblicana tendenzialmente isolazionista, prima che arrivassero i Bush e quelli lì, e cioè lui ha detto abbiamo fatto un mucchio di guerre inutili, sanguinose, abbiamo speso un mucchio di dollari, abbiamo incendiato il Medio Oriente per nulla. Ecco, se effettivamente prevalesse questa componente isolazionista, sarebbe un gran vantaggio per tutti. È perché Massimo Fini da sempre lo dice, cioè che se ne vadano fuori dalle balle, esatto, diciamo, lo dice così. C'è anche un'altra cosa, è questa, ma è un, diciamo, un particolare di questa Trump non ha nascosto le sue simpatie per Putin, no? Questo permetterà anche all'Europa, o permetterebbe anche all'Europa di poter avvicinarsi alla Russia di Putin. Sì. E per noi è importante perché i rapporti con la Russia sono più importanti di quelli con gli Stati Uniti d'America. Sì, bisogna capire poi, da Andrew Spannhauser e tutti i giornali si interrogano sia sull'economia sia sulla politica estera, cosa e quanto Trump poi porterà avanti nel programma rispetto a quello che ha detto, anche in maniera molto esuberante in alcuni casi. Beh, lo scopriremo, però ricordo a tutti che Renzi da Presidente del Consiglio fa l'opposto di quello che diceva la Leopolda, se vogliamo usare questo metodo, l'opposto dalla RAI a tutto il resto, quindi basta che ce lo ricordiamo, perché sennò sembra che qui la questione della coerenza riguarda come sempre solo chi non ci piace. Spannhauser, cosa farà Trump di quello che ha detto? Beh, ci sono due grandi filoni, quello economico e quello di politica estera. Riprendiamo, magari, visto che Massimo Fini parlava della politica estera, è chiaro che i rapporti con la Russia sono il punto più importante, perché su questo Trump ha avuto coraggio politico, mentre 99% della stampa delle istituzioni americane trattano Putin come il diavolo, Trump ha mantenuto la sua promessa di cercare la diplomazia con Vladimir Putin. Quindi questo per l'Europa, per l'Italia è importante. Poi non bisogna esagerare, credo che Massimo Fini esageri a dire che magari i rapporti sono più importanti che con gli Stati Uniti, ma la questione per l'Italia è spazio di perseguire interessi legittimi. E questo per Trump, insomma, con Trump sarà molto diverso che con Hillary Clinton, che invece ha una posizione molto più aggressiva verso la Russia. Massimo sarà... Fini ha anche origini russe, quindi... Allora lasciamo. Quindi, è chiaro adesso. In economia, insomma, la grande domanda è: Trump farà veramente quello che dice? Che Trump non è un repubblicano, non è un conservatore repubblicano. Adesso ieri, nel suo discorso, primo punto è: faremo grandissimi investimenti nelle infrastrutture, ricostruiremo strade, ponti. Ieri sembrava un keynesiano alla Franklin Delano Roosevelt, infatti mi sono girato un po' le scatole, a dire la verità. Ecco, farà questa cosa. Paul Ryan cosa ne pensa? Paul Ryan preferisce tagliare, privatizzare le pensioni, tagliare il welfare, insomma. Donald Trump no. Quindi questo sarà una grande battaglia. Anche il ritiro, chiamiamolo così, lo smantellamento dell'Obamacare, che poi è la più grande eredità in termini di politica economica interna e che ha alzato molto l'intermediazione pubblica del reddito sotto la presidenza Obama, e l'ha detto in campagna elettorale, farlo senza far guai e senza avere molti nemici è un po' problematico. Vedremo. Cosa pensa della politica monetaria? Chi mette la Fed? Chi mette la Corte Suprema? Anche qui sull'indipendenza della Fed, per esempio, rimarrà indipendente? Perché oppure... sulla politica monetaria, da quel poco che sappiamo, lui ha cambiato idea. Lui per anni è stato favorevole alle politiche Lasky keynesiane, quindi si vede che non è un repubblicano tradizionale. Ultimamente ha detto no, la Fed sta troppo buona, dovrebbe alzare i tassi per fare un favore al clan democratico. In ogni caso facciamo così, due o tre minuti di pubblicità, state con noi, riprendiamo da Massimo Fini e Andrew Spannhauser, i nostri ascoltatori, e discutiamo ovviamente del nuovo presidente americano. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. 24 mattino. Eccoci. Attenti a noi due. Andrew Spannhauser, Massimo Fini. Massimo, non è che avendo detto che è la madre russa, insomma, è per quello che c'è una vicinanza, quindi c'è un'origine ti spinge verso un amore, è giusto? No, insomma. Ma io voglio dire sempre che Trump tenga fede ai suoi programmi, perché poi Max Weber diceva che i programmi hanno solo un valore fraseologico, no? Però questo sarebbe un vantaggio per tutti i paesi del mondo, direi, cioè questa politica americana totalmente aggressiva che c'è stata in 15 anni, almeno negli ultimi 15 anni, quindi guerra all'Afghanistan, guerra all'Iraq, guerra alla Somalia, guerra alla Libia, eccetera, potremmo avere un mondo forse un pochino meno guerrafondaio. Non è che Putin sia proprio un, come dire, no, per carità, uno che ci va con i guanti di velluto con Putin. Uno è il genocidio ceceno, l'altro è che è un autocrate totalmente privo di scrupoli, non c'è dubbio. Però vuol dire, se io potessi scegliere, sceglierei per un'Europa indipendente dall'uno e dall'altro grande potenza. Ecco, però la risposta alla tua opzione c'è, che l'Europa non esiste né come grande né piccola potenza, fine, perché tanto l'Europa assiste a una specie di decomposizione nel tempo di ogni suo principio. Ma io non sarei così pessimista, nel senso che non c'è niente da fare. In un mondo come questo non può un singolo paese. Hai ragione, ovvio. Sono d'accordo. Quindi è ovvio che se questi hanno un minimo di raziocinio. Ah, ecco! Allora sono d'accordo. Però bisogna fare questa premessa che oggi mi sembra un po' negata. E lo dico da tutte le parti: cioè le vecchie elite dei partiti socialisti e moderati europei, i due pilastri, poi sì, c'erano i liberali. Sono, se vai a vedere, nei grandi paesi europei sono sbiellate dovunque, cioè mica solo c'è l'Italia per via di Forza Italia e il PD spappolato che non sa se deve stare con Blair, se deve stare nel ritorno alle vecchie politiche della sinistra. Se vai a vedere tra la Spagna, la Francia e sì, tra la Germania, ma gli altri stanno tutti a pezzi, non è un po' così? Grazie. Ma senti, queste cose bisogna guardarle un po' a gioco lungo. A gioco lungo, se l'Europa non riesce a unirsi bene politicamente, che era poi l'idea iniziale, sì, ma gli americani non ce l'avrebbero permesso nel 1945, è chiaro che non conteranno nulla neanche i singoli paesi. Esatto. Io vedo un'Europa, così poi dirà Alessandro che sono... che sono ho padre tedesco, io vedo un'Europa a guida tedesca. Ah, e allora no, vedi, benvenuto insieme a me nella minoranza assoluta, non passeranno mai queste idee, figurati. No, va bene, sentiamo qualche ascoltatore veloce, poi torniamo dentro lo Spanhouse. Pasquale da Firenze ci chiama. Pasquale, buongiorno. No, perché in questo momento l'Europa a che guida è, non ho capito. È già tedesca, quindi, dice Pasquale. Non è che è una grande novità. No, la sintesi è questa: questo non è un voto per Trump, è un voto contro la Clinton. Ed è evidente che se si vuole fare una lotta ai repubblicani si fa con i democratici, non con i rappresentanti di Wall Street. Mi sembra impropria la lotta che hanno fatto. Secondo punto, io vedo degli elementi positivi per l'Europa, perché anzitutto tra i due il pacifista è Trump, mi sembra di capire, è comunque quello che meglio può raggiungere determinati equilibri. Il secondo punto è uno che mira molto a una politica interna, va bene, ma lascerà l'Europa libera di fare qualcosa di più di quello che ha potuto fare sino ad ora. Questa è la mia ma voi pensate davvero che l'Europa non faccia perché gli americani glielo impediscono? Questo o perché dire, non è in grado di chiaro fare. Che all'indomani del secondo dopoguerra è Massimo Coglie un punto di fondo, ma l'Europa non fa perché è divisa su tutto e fa solo politiche nazionali. Cioè la politica commerciale la fanno le delegazioni dei tedeschi che vanno in Cina, ma fa l'Europa o quelle francesi che vanno in mezzo mondo a vendere i loro prodotti e così via. Cioè voi pensate che c'è questa Europa che il mondo gli impedisce di crescere perché facciamo paura, siamo spaventosamente divisi su tutto, cioè questo è per come la vedo io, la mia opinione vale come quella degli altri. È talmente plastica, però da Andrew Spanhouse è interessante capire quello che dice Pasquale da Firenze, un voto pro o contro, sai, in Italia si citava sempre Montanelli e il famoso turiamoci il naso e votiamo, hanno fatto così anche gli americani, Andrew? Beh, molti sicuramente hanno votato contro Hillary Clinton perché rappresenta un establishment, un'elite che insomma sembra fallimentare sia su politica economica che politica estera, però negli ultimi giorni devo dire che è cresciuto il voto di Donald Trump, è cresciuto, arrivare a oltre 47% significa che è riuscito a intercettare una speranza di cambiamento, ha utilizzato le stesse parole di Barack Obama di 8 anni fa, noi siamo il cambiamento che stavamo aspettando, quindi Donald Trump è riuscito a presentarsi veramente come un agente del cambiamento. No, sul tema degli Stati Uniti, ecco, insomma, l'Europa, io credo che l'Europa, ha ragione Giannino a dire che è divisa, ma io penso che sia un problema abbastanza di sostanza per l'Europa. È divisa perché ci possono essere anche interessi diversi, bisogna pensare, l'Europa ha fatto bene, sta facendo bene o sta facendo male, più questione di sostanza che di forma. Paolo ci chiama da Pavia, buongiorno Paolo. No, dunque, io vedo Trump come uno che vive del suo, che si è costruito e che è la cosa più vicina al sogno americano, probabilmente questo tanti americani hanno votato. Hillary rappresenta la family che non si stacca. Vabbè, insomma, l'analisi è un po' come stiamo dicendo. Grazie. Giovanni invece da Padova, buongiorno Giovanni. Sì, pronto, buongiorno, complimenti anche a Massimo Fini. che stimo pur non condividendo molte delle sue idee, ma che mi piace molto come commentatore, ho letto diverse sue cose. Niente, una cosa che forse ho ascoltato ieri durante il discorso di commiato di Hillary Clinton è stato a un certo punto un passaggio in cui ha detto: voi comunque rappresentate la parte migliore dell'America. Ma roba da e pazzo. Lo collego. E lo collego al fatto che cosa dovrebbe dire, cosa dovrebbe aver detto, cosa dovrebbe dire ai suoi elettori? Ma proprio a questo mi riferivo riguardo ai commenti che molti visibili che abbiamo letto oggi sui giornali italiani, ovvero sia comunque questa supposta superiorità morale che alla fine secondo me è quello che ha portato la vittoria di questo difetto costitutivo di molte sinistre sempre. Però per rispondere a Alessandro dice cosa doveva dire, se fai un intervento in cui dici anche tu l'appello all'unità accogliendo quello del vincitore, devi dire, non puoi dire che siamo la parte migliore se fai l'appello all'unità. L'appello all'unità è contraddetto da siamo superiori eticamente, come si dice, caro Alessandro, siamo due conduttori, ma certo tanto me io sono più bravo. Ho capito, allora finito. Ma è ovvio che in quel momento, di fronte a, come dire, dover anche consolare gli sconfitti e dire siete migliori, nel senso siete stati perché con me. Perché Lady Gaga è migliore di Clint Eastwood? Non lo so. Spieghi. Cioè, mi sono cose a cui io proprio non riesco a darmi una risposta. Non lo so. No, Giovanni De Padova, l'abbiamo appena chiamato. Qual è la sfida vera che farà nei famosi primi 100 giorni Spannausa? Perché i 100 giorni no, sono importanti in America, i primi 100 giorni, rispetto invece ad altri paesi che hanno un po' mutuato e copiato questa dicitura. Che farà Trump adesso? Oltre a levare l'orto dalla Casa Bianca. Ma porca! Ma adesso questa... Vediamo sto orto, dai. Eccolo qua, questo. Ma che t'ha fatto l'orto? Mettiamoci un po' di cavoli, anch'io ho apprezzato, ma era diventata la retorica OGM, pure quello. Anche bio li mettiamo. Ma hai capito? Che t'hanno fatto? A me mi è piaciuto all'inizio, poi era diventata la retorica, capisci? Tu che tutte le mogli statisti mondiali andassero lì. Zappettiamo. Che farà? Toglierà l'orto, poi che farà Spannaus? Beh, la grande domanda è se appunto se sarà un conservatore, se in economia se riuscirà a imporsi lui, a imporre la sua visione o no. A me il congresso repubblicano spaventa un po' perché, come si diceva, tagliare la sanità a 20 milioni di persone da un giorno all'altro insomma, è abbastanza pesante. Quindi, e a proposito di Senato, però, a proposito, Andrew, perché molti dicono al Senato e la Camera dei rappresentanti, è vero, è tutto repubblicano. Ma non sono quelli che l'hanno, molti di loro non l'hanno appoggiato apertamente. Dunque, che succede? Coopereranno? Litigheranno? Non si sa. Io credo che cercheranno, sia da una parte o dall'altra, di mantenere la propria visione, non recepire abbastanza quella di Donald Trump. E questo può sembrare ironico perché Donald Trump deve essere quello pazzo, però in realtà sui punti che lo hanno portato alla vittoria, l'hanno portato ad avere il sostegno abbastanza diffuso, sono i punti che lui ha capito che la gente normale non vuole certe cose, non vuole una certa politica pro Wall Street, non vuole le guerre in giro per il mondo. Quindi Trump sarà veramente il presidente o riusciranno a manipolarlo, riusciranno a contenerlo? Obama nei primi mesi non ha preso misure abbastanza forti contro Wall Street e l'ha pagato e stiamo pagando tutti. Perché era ostaggio di un establishment, che cioè quello precedente, che era espressione diretta del potere di Wall Street. Io penso che sia un po' sottovalutato che nel no fortissimo al clan Clinton, al clan Obama del voto, però c'è un altro tanto forte, potentissimo alla leadership repubblicana tradizionale, diciamo la famiglia Bush, tutto quello che c'è e che significa i neocon e così via. Il no dei repubblicani votando Trump a quella roba è altrettanto forte che no. La guida dei repubblicani, la regia dell'elezione dei candidati al Senato e alla Camera dei rappresentanti, in quelli che vanno in scadenza, rimane nelle mani di questi, non di Trump. Quindi, io non lo so, per quel che riguarda la mia ultima domanda è sulla questione del rapporto con le donne. Voglio farla a Massimo Fini, ma sono un po' timoroso anche di... Gli chiedi se è meglio Ivanka o no, se è meglio a parte Melania. Che appunto gli americani non hanno votato per una donna, a Melania Trump sarà una bella donna, voglio dire. Allora Massimo, c'è tutto questo aspetto che le donne, le accuse di sessismo, le molestie... Questo voto è anche, fa un po' piazza pulita di questo sessismo al contrario, per cui una donna in quanto tale è comunque migliore di un uomo. Non è così, può essere o può non essere, ma questo pregiudizio femminile mi sembra molto... Sì, ma non ha neanche funzionato le accuse, non so neanche, ho perso il conto di quante ne avrebbe molestate Trump. Ma non, sì, non... ma quello si vedeva che era strumentale. Comunque poi si sa, anche se non lo si vuol dire, che le donne non si fidano delle donne, giustamente, mentre noi maschi come cretini ci fidiamo. Massimo deve aggiungere giustamente, le donne non si fidano delle donne, delle donne. Ecco. E quindi ritornando a un discorso un po' più serio, hanno preferito un uomo a una donna di cui non si fidavano, perché sì, chiaro, rappresenta più l'establishment che la modernità o il fattore D, ecco, mettiamo. No, ma voglio dire, io spero che non sia vero che la Boschi abbia davvero ieri detto e adesso ci tocca a Briatore ambasciatore, pare che abbia fatto come battuta, ora ci tocca a Briatore ambasciatore. Io mi auguro così, racconta Repubblica, che l'Italia ufficiale trovi toni e forse argomenti, no? Un pochino più intelligenti di questi. Allora, ricordo, Andrew Spanhaus, perché vince Trump, ma non l'ha scritto adesso, l'ha scritto 5 mesi fa e quindi lo trovate in libreria. Come trovate in libreria edizioni l'ultimo... Mimesis, esatto. Come trovate in libreria La modernità di un antimoderno, l'ultima opera di Massimo Fini. Allora noi vi ringraziamo, caro Oscar, alle 4:30. Capisci, titoli italiani, il dopo Trump preoccupa MPS. Ma l'ha distrutto il PD l'MPS, no Trump, chiuso. No, ma dai, facciamo ridere, facciamo. Va bene, dai, ci troviamo domani, ciao.